Letture di Radio 24. Una volta si credeva che i figli unici, crescendo, diventassero solitari e introversi, ma una ricerca inglese rivela che non avere fratelli e sorelle rende più felici. Buone notizie per i tanti genitori di figli unici che si sentono in colpa perché non hanno dato un fratellino o una sorellina al loro singolo erede. A quanto sembra, hanno fatto bene. Una delle più ampie ricerche condotte in materia rivela che meno fratelli e sorelle ha, più un bambino è soddisfatto e contento. E i più felici di tutti sono, per l'appunto, i figli unici. Litigi, bullismo, rivalità, competizione per le attenzioni che si ricevono da papà e mamma sono le cause principali che rendono infelice o perlomeno difficile la vita di molti fratelli e sorelle, afferma lo studio. Uno stato di tensione che può ripercuotersi sullo sviluppo dei bambini, facendoli diventare adulti con problemi comportamentali e depressione, ma che ha conseguenze negative anche per i genitori, creando uno stato di stress e contribuendo a mettere in crisi l'armonia della coppia. La tesi è il risultato di un'indagine sulle vite di 100.000 persone, suddivise in 40.000 famiglie, condotta da un'agenzia governativa britannica, l'Economic and Social Research Council. Queste le cifre. Il 54% dei figli si lamenta per forme di costante bullismo, fisico o verbale, da parte di fratelli e sorelle. Quasi il 30% dice che i fratelli o le sorelle li chiamano con nomi brutti e li trattano a male parole. Il 17,6% soffre perché fratelli e sorelle portano via i loro giocattoli, usano le loro cose o gliele rovinano. Altri fattori di insoddisfazione sono la competizione per le cure dei genitori, per lo spazio da dividere all'interno della casa, per difendere la propria privacy. In generale, conclude la ricerca, il livello di felicità declina in proporzione a quanto è più alto il numero di fratelli e sorelle in famiglia. Lo studio in questione e altre ricerche sullo stesso argomento illustrano anche gli aspetti positivi di avere fratelli e sorelle, come il sostegno reciproco che ci si può dare, specie in momenti difficili. Ma i continui diverbi tra fratelli, aggiunge l'esperto, aumentano lo stress per i genitori, alcuni dei quali finiscono per rinunciare a intervenire o intervengono in maniera inconsistente. In passato erano i figli unici a essere considerati come portatori di un handicap. Più timidi, impacciati, chiusi rispetto ai bambini con fratelli e sorelle. Ma questo non è più vero, sostiene la Freegard citando i dati della Essex University. Molti figli unici oggi sono aperti, estroversi, sicuri di sé, i più svelti a fare amicizia con estranei a scuola, nei parchi giochi o in vacanza. Sembrano davvero bambini felici. Un ultimo dato illuminante in proposito. Secondo la ricerca, i figli di minoranze etniche, unici o con fratelli, sono mediamente più felici dei figli di famiglie britanniche bianche. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Franceschini, Figli unici, ecco perché sono più felici, da Repubblica del 15 novembre. Letture di Radio 24. Sono tanti i bambini che negli ultimi 30 anni sono rimasti vittime della violenza mafiosa. A partire dal delitto più infame, quello commesso da Giovanni Brusca, che sciolse nell'acido il figlio di un boss pentito. È possibile spiegare ai ragazzi che cosa sono la mafia, la camorra, l'andrangheta? È l'obiettivo che si pone il giornalista Antonio Nicaso, scrivendo un saggio rivolto proprio ai più piccoli. Allibertatevi du cagnoletto, liberatevi del cagnolino. Con queste parole, il 12 gennaio 96, Giovanni Brusca ordinò al fratello Enzo, Vincenzo Chiodo, detto Quacquarotto, Giuseppe Monticciolo e Salvatore Grigoli, di ammazzare e di sciogliere nell'acido Giuseppe Di Matteo, il figlio di un pentito di mafia che avevano sequestrato nel 94, quando aveva solo 13 anni. Il verbale degli interrogatori gela il sangue. Chiodo. Facemmo mettere il bambino faccia al muro. Fui io a strangolarlo. Gli altri due lo tenevano fermo per le braccia e per le gambe. Il bambino non oppose alcuna resistenza. Secondo me non ha capito fino all'ultimo momento. Era ormai fiacco. Monticciolo. Poi, dopo questa operazione, mentre Brusca spogliava il bambino, il Chiodo ha portato giù i bidoni dell'acido e il fusto di lamiera. Finita l'operazione, si fecero un caffè. Monticciolo. Andammo dopo 2 ore a controllare. Si vedevano solo i piedi del ragazzino. Chiodo. Ricordo che Brusca, vedendo che stavo andando a bruciare il pezzo di corda, mi disse in tono scherzoso: «Questo te lo puoi conservare come trofeo». Sono stati tanti i bambini che negli anni sono rimasti stritolati in queste guerre infami. Tanti. Assassinati perché avevano visto qualcosa, per punire la famiglia, perché passavano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Altri hanno visto la loro vita marchiata fin dalle scuole materne, come Vito Andrea Ciancimino, che qualche mese fa ha ricevuto la sua prima letterina a 5 anni, con dentro una pallottola. Pallottola che doveva spaventare suo papà, Massimo, il figlio del discusso sindaco di Palermo, colpevole di raccontare ciò che sa ai magistrati. A un mafioso che gli fa notare come nella sparatoria sarebbero potuti morire anche bambini, ricorda Antonio Nicaso, il boss Totò Riina risponde: «E allora? Anche a Sarajevo muoiono i bambini». Per questo il giornalista calabrese, che da anni vive in Canada e ha firmato una serie di libri importanti sulla criminalità organizzata internazionale, ha deciso di scrivere un saggio apposta per loro, i più giovani. Si intitola «La mafia spiegata ai ragazzi». È edito da Mondadori e si propone un obiettivo ambizioso: raccontare nel modo più semplice, e Dio sa quanto ciò sia difficile, soprattutto su certi temi, cosa sono la mafia, l'andrangheta, la camorra, la Sacra Corona Unita. Qual è la loro storia? Quali sono i loro riti? Quali sono le parole chiave? Non si parla certo solo delle mafie italiane, ma anche dell'americana Cosa Nostra, delle triadi cinesi, della yakuza giapponese, dei vori vuzzacone russi, dei cartelli colombiani e messicani, della mafia nigeriana o albanese. Il centro di gravità del libro, però, e non potrebbe essere altrimenti, è qui, nel nostro tormentato mezzogiorno, dove per troppo tempo, nelle scuole, nelle case, in famiglia, il tema è stato accuratamente accantonato. Quando ero ragazzo, di contribuire a combattere la mafia assieme alle forze dell'ordine non passava per la testa a nessuna persona per bene, scrive Andrea Camilleri nella prefazione del libro Oltre il buio della mafia di Alfonso Bugea. Le persone per bene, o meglio civili, come si usava dire allora, la mafia semplicemente la ignoravano. Di mafia non se ne doveva parlare a casa. Se per caso sotto alle tue finestre avveniva un omicidio di mafia, si chiudevano bene le finestre. Nominare la mafia in famiglia era come parlare di diarrea durante un pranzo di gala. Certo, qualcosa oggi è cambiato. La discussione sulla materia mafiosa nelle scuole italiane come punto nodale per il nostro vivere civile, però, è ancora sporadica, se non osteggiata. Ecco, la mafia spiegata ai ragazzi cerca di tappare il buco. Con la spiegazione di certe parole, cosca in siciliano indica il torso, la parte interna e nascosta del carciofo, protetta da foglie spesso spinose. Le testimonianze dirette, come quella di Leonardo Messina, sulla sua iniziazione. Con un ago mi hanno punto il polpastrello di un dito e mi hanno dato in mano una santina. L'hanno macchiata con il mio sangue, le hanno dato fuoco e io me la passavo da una mano all'altra. Poi mi hanno suggerito le parole da dire. Mi hanno detto di ripetere: «Come carta ti brucio, come santa ti adoro. Come brucia questa carta deve bruciare la mia carne se un giorno tradirò Cosa Nostra». I proverbi su cui la mafia si appoggia: «A megghiu parola è chidda che non si dici». La parola migliore è quella che non si dice. Non mancano i ricordi di tante persone che alla guerra contro la mafia hanno sacrificato la vita. Da Giovanni Falcone a Peppino Impastato, da Antonino Scopelliti a Don Pino Puglisi. E tanti spunti per meditare, come una frase nel diario del giudice ragazzino Rosario Livatino, assassinato 20 anni fa ad Agrigento: «Verrà il giorno in cui non ci chiederanno se siamo stati credenti, ma credibili». Può bastare per sottrarre gli scolari ai mangiafuoco della mafia, della camorra, dell'andrangheta, che quotidianamente arruolano burattini promettendo loro una vita di soldi, avventure, lussi, fuori serie? Forse no. Ma certo ci si deve almeno provare, anche coi libri giusti, a strappare tanti ragazzini dai quartieri a rischio a quel destino riassunto in poche parole terribili del magistrato Raffaele Cantone, uno di quelli più esposti nella lotta contro la camorra, davanti al cadavere di un giovanissimo morto in una sparatoria. Che fosse autentico o contraffatto, tutto quello che riuscivo a scorgere addosso a quel ragazzo morto era di marca. Qui vanno al macello i piccoli yuppie della camorra. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella, L'Ordine, liberatevi del cagnolino, dal Corriere della Sera del 16 novembre.